Letture di Radio 24. Dopo la figuraccia rimediata da Madonna e Robert De Niro in occasione della campagna elettorale statunitense, un'altra stella dello spettacolo si è accanita contro Donald Trump, Meryl Streep, che in occasione dei Golden Globe ha approfittato dei riflettori accesi su di lei per ironizzare pesantemente sul presidente degli Stati Uniti. Nei giorni successivi, Lorenzo Soria, presidente della Hollywood Foreign Press Association, ha inviato una lettera aperta alla Streep per offrirle il suo sostegno. La HFPA sostiene la tua difesa della libertà di espressione e rifiutiamo ogni appello alla censura. Ti ringraziamo per il tuo continuo sostegno alle arti, conclude Soria. Di diversa opinione, lo scrittore statunitense Gay Talese, che in un'intervista a Paolo Mastrolilli, pubblicata sulla Stampa, ribadisce: sono stanco di sentire gente dello spettacolo che usa le cerimonie di premiazione per fare sermoni politici. Se vogliono guidare il paese, si presentino alle elezioni, come avevano fatto Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger. Con queste uscite, peraltro, ottengono il risultato opposto a quello voluto, perché rafforzano il sentimento degli elettori di Trump verso le élite liberal. Il problema non è condividere o meno le sue parole, continua Talese, ma il modo e la situazione in cui sono state pronunciate. I Golden Globe, come gli Oscar, sono una cerimonia organizzata per celebrare i migliori film dell'anno. Perché devono essere trasformati in una tribuna politica? Perché un'attrice, che oltretutto non ha presentato un film su questi temi e quindi non avrebbe una ragione diretta per discuterli, dovrebbe usare la piattaforma offerta da una premiazione per giudicare la presidenza degli Stati Uniti? Ha tutto il diritto di esprimere la sua opinione, ma in un altro contesto. Così invece tutto diventa una photo opportunity. Ognuno può parlare della direzione del paese dove crede. Se però queste persone hanno voglia di fare politica, sono libere di candidarsi. Dal mondo dello spettacolo sono già emersi personaggi come Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger e per certi versi si può sostenere che lo stesso Trump proviene almeno in parte da queste esperienze. Naturalmente gli attori sono grandi comunicatori e hanno il vantaggio della popolarità. Io penso che le uscite come quella di Meryl Streep danneggiano la sua stessa causa perché rafforzano la convinzione di chi ha votato Trump. Gli elettori del nuovo presidente lo hanno scelto proprio contro l'establishment, che nella loro mente include le élite liberal come quella di Hollywood. Prendendo una posizione così netta e sfruttando una sede non appropriata, a cui gli altri cittadini non hanno accesso, la Streep ha confermato tutti questi pregiudizi. Forse ha soddisfatto chi era già contro Trump, ma non credo che abbia fatto altri proseliti e invece ha solidificato le convinzioni dei suoi elettori. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Paolo Mastrolilli, Talese, basta sermoni politici dal mondo dello spettacolo, dalla Stampa del 10 gennaio. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Letture di Radio 24. Un militare che aveva tentato il suicidio puntandosi una pistola alla tempia è ora indagato per violata consegna e per tentata distruzione di oggetti di armamento militare. Questo è solo uno degli esempi della situazione odierna del diritto militare, alla luce delle modifiche apportate nel 2015 e 2016 all'articolo 1393 del Codice dell'Ordinamento Militare. Tali interventi normativi consentono oggi la destituzione, cioè il licenziamento di un militare, ben prima di una sentenza irrevocabile di condanna, scrive l'avvocato Giorgio Carta, specializzato in diritto militare, in un articolo pubblicato su GRNet, sito specializzato sui temi della sicurezza e della difesa. In altre parole, quando ancora le indagini preliminari sono in corso, continua l'avvocato, e i relativi atti non sono ancora integralmente conoscibili dall'interessato, l'amministrazione può destituire un militare, presumendolo colpevole di un fatto per il quale deve ancora essere processato o anche solo rinviato a giudizio. Tutto ciò con buona pace dell'articolo 27 della Costituzione, secondo cui qualsiasi imputato andrebbe considerato innocente sino alla condanna definitiva. La norma in esame ha già avuto ampia e tempestiva applicazione per numerosi militari, che si sono ritrovati su una strada e privi del reddito necessario per campare ben prima di qualsiasi accertamento penale e senza che i giudici amministrativi ritenessero costituzionalmente illegittima tale procedura. Padri di famiglia da me personalmente conosciuti hanno perso il posto di lavoro senza nemmeno poter disporre di tutti gli atti di indagine, ancora coperti dal segreto investigativo e che magari avrebbero potuto dimostrare l'infondatezza delle accuse. La presunzione di innocenza viene altresì disattesa in occasione dei concorsi, sia pubblici che interni, la cui partecipazione è preclusa agli imputati, che pure devono ancora essere giudicati, con la conseguenza che nell'immediato non possono aspirare all'impiego desiderato e a distanza di anni l'eventuale assoluzione penale non consente loro comunque la riammissione ai concorsi, perché frattanto hanno superato il limite di età previsto dai bandi. Stesso discorso vale per i condannati che abbiano ottenuto la riabilitazione, ai quali viene parimenti impedita la partecipazione ai concorsi. Si rammenti inoltre che in nessuna organizzazione lavorativa, tranne che in quella militare, il superiore gerarchico, nella specie il comandante di corpo, può esercitare potestà riservate alla magistratura, come limitare la libertà personale dei dipendenti, con l'irrogazione di una consegna di rigore, e stabilire se i medesimi debbano essere sottoposti o no a un processo penale, per i reati militari punibili fino a 6 mesi di reclusione. Sarà pur vero che l'avvocato, come il medico, viene abitualmente in contatto con i casi estremi o problematici piuttosto che con quelli normali, ma due fatti verificatisi sul finire del 2016 sono comunque riusciti a stupirmi. Un militare è stato sottoposto a procedimento disciplinare per essersi cagionato una frattura ossea durante l'espletamento del servizio. L'accusa? Quella di non avere prestato la dovuta attenzione, procurandosi così colposamente un'infermità fisica. L'altro caso è quello già raccontato del tentativo di suicidio. Certo, a rigore, la configurabilità astratta del reato è formalmente ineccepibile. Sgomenta però che un dramma personale così grave da indurre un uomo a un gesto estremo lo esponga altresì all'eventualità di una detenzione in un carcere militare. Per rieducarlo a cosa? Proseguirà anche nel 2017 l'annoso dibattito sulla sorte di tribunali penali militari, problema questo che viene dai più affrontato in modo scorretto, confondendo la loro paventata chiusura con l'abrogazione dei codici penali militari, che è cosa diversa e che non è assolutamente in discussione. Non è chiaro a molti che l'odiosità di alcune anacronistiche fattispecie incriminatrici non verrebbe certo meno per effetto dell'eventuale chiusura dei tribunali militari. Semplicemente, altri giudici, questa volta ordinari o appartenenti a sezioni specializzate, sarebbero chiamati ad applicare quelle stesse norme dei codici militari. Ecco perché, malgrado la diffusa contraria vulgata, io mi pongo tra quelli che auspicano il mantenimento dei tribunali militari e piuttosto l'estensione della loro giurisdizione, per esempio ai reati ordinari commessi dai militari, perché nella pratica si rivelano molto più equi e giusti di quanto normalmente si creda e anzi, spesso si trovano impegnati a mitigare in punto di diritto l'asprezza anacronistica di codici militari concepiti nel 1942, durante il fascismo e in piena Seconda Guerra Mondiale. Nella mia esperienza presso i famigerati tribunali militari, ho certamente visto più assoluzioni ingiuste che condanne ingiuste. All'alba del 2017, quindi, le caserme si rivelano ancora come luoghi nei quali anche diritti costituzionalmente pacifici, come quello della presunzione di innocenza, tardano ad affermarsi e, anzi, vengono progressivamente limitati. La sfida di quest'anno potrebbe essere quindi quella di verificare se, dopo il benefico innesto nel mondo militare delle donne, notoriamente più coraggiose e battagliere degli uomini nel far valere i propri diritti, analogo benefico effetto sortirà il transito di circa 7.000 forestali nei carabinieri e, in misura minore, nella Guardia di Finanza. Quantomeno al fine di riprendere una seria meditazione sullo stato dei diritti dei militari, da troppo tempo tralasciata e delegata a quei pochi coraggiosi che ancora non si arrendono. Se il buongiorno si vede dal mattino, sono certo che da questo punto di vista ne vedremo delle belle. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Giorgio Carta, La lunga marcia dei diritti dei militari, una partita ormai persa o tuttora aperta, pubblicato il 9 gennaio sul sito grnet.it. Il 1 maggio 2015, mentre Renzi inaugurava l'Expo, 500 No Global devastavano Milano, provocando oltre 3 milioni di euro di danni. Dopo un anno e mezzo di indagini, la Digos di Milano ha ricostruito la rete anarchica responsabile della guerriglia urbana. A capo della banda c'è Valerio Ferrandi, che dopo le devastazioni si è rifugiato in Sud America, divertendosi a postare foto di aragoste e barche sul suo profilo Facebook, alla faccia dei milanesi che si sono trovati in negozi e macchine distrutti. Nel mirino dei PM ci sono ora 22 responsabili. Di questi, 18 sono milanesi e hanno un curriculum conosciuto, come scrive Davide Milosa sul Fatto Quotidiano, che poi prosegue. La provenienza è quella generalissima dell'area anarchica. Più specifica, la localizzazione nella mappa cittadina, che si allunga verso la zona del Giambellino. Uno dei leader di questo gruppo è stato individuato in Valerio Ferrandi, figlio di Mario Ferrandi, l'ex di prima linea, poi pentito e oggi riabilitato, che il 14 maggio 1977 uccise in via De Amicis il brigadiere Antonio Custra. Ferrandi, che la mattina del 1 maggio fu controllato da una volante e poi lasciato andare, nelle settimane successive agli scontri ha lasciato l'Italia, rifugiandosi a Panama, passando le giornate tra mare e aragoste, come testimoniano le foto sul suo profilo Facebook. Il suo gruppo, secondo la ricostruzione degli investigatori, ha iniziato a pianificare la guerriglia già nel mese di marzo. In questo periodo vengono registrati diversi viaggi in aereo per mezza Europa. Obiettivo? Sondare il terreno con i vari gruppi stranieri e, ottenuto l'ok, iniziare la pianificazione. Proprio per questo motivo, la banda di Ferrandi nel mese di febbraio del 2015 ha occupato l'hotel abbandonato in via Ruggero VII nella zona di via Washington, con lo scopo preciso di accogliere parte degli stranieri. Lo stesso è stato fatto in via De Peredis, dove ha sede Radio Cane. Qui alcuni appartamenti furono sgomberati già il 30 aprile. E poi c'è la logistica. Ogni gruppo straniero è stato gestito da un referente dei milanesi, sia prima sia durante la guerriglia. C'è di più. Saranno sempre gli anarchici milanesi, nella tarda mattinata del 1 maggio, a radunare la parte più consistente del blocco nero in via Gola, suc anarchico a due passi dal Naviglio Pavese. La visione dei filmati, poi, ha restituito un quadro organizzativo evidente. Le prime devastazioni iniziano in via De Amicis verso via Carducci. Qui, oltre alle mazze, i milanesi oggi denunciati distribuiscono cartine contracciate, oltre al percorso, possibili vie di fuga. In largo d'Ancona, pochi minuti prima della devastazione, ecco ancora i milanesi fare segnali con le dita. 2, 3, 4, come nel football americano. Sono le indicazioni del come e dove muoversi. In via Leopardi gli stranieri bruciano un'auto, con loro un gruppetto di milanesi che subito dopo li riporta nel blocco. Prima e dopo la devastazione nessuno parla. Le telefonate messe agli atti non producono risultati. Il gruppo non parla nemmeno in chat. Tutto avviene per compartimenti stagni. Le riunioni sono volanti e in luoghi aperti della città, impossibile intercettarle. E nonostante questo, per la Digos il quadro è chiaro. La guerriglia fu attentamente pianificata. Ora la palla passa ai PM che in questi giorni stanno valutando l'intero materiale per dare una direzione giudiziaria al percorso investigativo. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Davide Milosa, 1 maggio, Expo. Ecco la banda che organizzò la guerra a Milano. dal Fatto Quotidiano del 12 gennaio. Leggere un libro non fa bene soltanto allo spirito, ma anche alla salute. Secondo i risultati di uno studio condotto per 12 anni dagli epidemiologi di Yale, chi legge vive un paio di anni in più rispetto a chi non apre mai un libro. Lo studio è stato fatto su 3.650 persone dai 50 anni in su. I ricercatori hanno diviso i partecipanti in tre gruppi: quelli che leggevano fino a 3 ore e mezza alla settimana, chi consumava narrativa per più di 3 ore e mezza alla settimana e i non lettori. Rispetto a questi ultimi, chi leggeva fino a 3 ore e mezza aveva il 17% in meno di probabilità di morire nei 12 anni successivi, percentuale che saliva al 23% nei forti lettori. Nell'indagine, l'epidemiologo Avni Bavishi sottolinea che più le persone leggevano, più vivevano, ma anche 30 minuti al giorno hanno mostrato qualche beneficio. La ragione di questo piccolo elisir di giovinezza? Probabilmente, ipotizzano i ricercatori, l'impegno cognitivo non solo potenzia l'empatia, la percezione sociale, l'intelligenza emozionale, tutti fattori che aiutano in termini di maggiore sopravvivenza, ma stimola anche il senso di benessere e di motivazione e il sistema immunitario e riduce i livelli di stress. Anche la lettura di periodici e quotidiani regala vita in più, sia pure in misura minore, perché richiede comunque coinvolgimento e concentrazione. Un'analisi futura potrebbe stabilire se gli stessi benefici vengono da audiolibri e e-books, conclude lo studio. E quello che avete ascoltato era l'articolo Un libro allunga la vita, da Panorama del 18 gennaio.